Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente commenteremo anche la borsa, anche se oggi, mutatis mutandis, è una giornata fotocopia a quella in cui Pfizer annunciò il vaccino, o meglio, da inizio gennaio, con una protezione al 90% e un'efficacia al 90%. Perché? Perché oggi è stata l'azienda statunitense Moderna, come hanno ricordato anche i noti GR24, ad annunciare che il suo vaccino ha un'efficacia del 94,5%, che riuscirà a produrre 20 milioni entro la fine 2020 da destinare agli Stati Uniti, per arrivare a produrre 500 milioni, 1 miliardo di dosi nel 2021. Si è mossa anche l'Europa, che ha creato il fondo CureVac, CureVac per essere proprio fare i fighi, per il vaccino, e dice l'Europa questo ci dovrebbe assicurare fino a 405 milioni di dosi. Questo è il quinto contratto per il nostro portafoglio di vaccini e stiamo lavorando a un sesto, appunto, con Moderna. E quindi CureVac da una parte per Bruxelles, gli altri accordi già firmati, AstraZeneca, ne parleremo più avanti con Alessandro Praterotti, dove c'è anche l'IRBM di Pomezia, Pfizer, e quindi l'Europa fa contratti e cerca di non accaparrarsi, di prenotare, per essere più corretti, le dosi di vaccino. Ora, da questo punto di vista è chiaro che tutte le notizie vanno prese con le pinze. L'elemento un po' nuovo, anche se chiaramente io non sono un tecnico, è che Moderna ha comunicato che ha una conservazione lunga questo vaccino a temperature di refrigerazione, cioè si prevede che il vaccino possa restare stabile a temperature standard tra i 2 e gli 8 gradi, le temperature di un frigorifero normale, per capirci, anche un po' più alte, per 30 giorni, e poi le condizioni di trasporto e conservazione devono essere di meno 20 gradi per 6 mesi. Perché cito questo? Perché sappiamo che un tema sul vaccino della Pfizer è stato proprio le caratteristiche per la conservazione in meno 80 gradi, i frigoriferi che l'Italia sta cercando. E anche il vaccino di Janssen è entrato nella fase 3 della sperimentazione, e poi ricordo che già Oxford, assieme a AstraZeneca, appunto con la collaborazione dell'italiana IRBM di Pomezia, è stato il primo a entrare nella fase 3. Anche Novavax è entrata nella fase 3. Perché lo dico? Perché cercheremo di capire se la borsa si stia muovendo su pura speculazione, quindi con una rotazione anche tra i titoli del mondo farmaceutico, oppure non inizia a spostarsi veramente su un'ipotesi di un vaccino che arriva un po' prima del previsto, e soprattutto va a modificare dei vaccini, per essere precisi, che arriveranno un po' prima del previsto e andranno a modificare le prospettive, non tanto che da gennaio o febbraio tutto cambi, ma è chiaro che la borsa e i mercati si muovono sulle attese più che sulle notizie. Più 2% Milano in questo momento, più 1,70% Parigi, mezzo punto Francoforte, più 1,40% il Dow Jones, più 1,90% Londra. Segnalo da noi sui titoli, anche qui salgono tutti, anche gli industriali. Leonardo fa più 7,5%, Tenaris più 7,40%, Biper più 5,80%, Interpump più 5,40%, Eni più 4,40%, Saipem più 3,80%. C'è anche il petrolio, come già è avvenuto nella giornata dell'annuncio di Pfizer, anche il petrolio sta crescendo, fa più 4,20% e porta con sé i titoli energetici. Banca Mediolanum più 4,40%, Saipem più 3,80% come Amplifon, il 3,60% lo guadagna Exor, il 3,5% Moncler, il 3,30% CNH Industrial e anche Azimut, il 3,20% Recordati ed Era. Fronte opposto c'è solo Terna che perde lo 0,30 e Inuit lo 0,30 come Diasorin. Parleremo di questo, ma parleremo anche della manovra, perché il Consiglio dei Ministri è slittato oggi dalle 12 alle 13 e poi alle 16. Allora, è chiaro che mentre il governo preparava la manovra si sono inseriti due decreti ristori che valgono 6 miliardi e 2, ma attenzione, dentro c'è anche il rifinanziamento della cassa integrazione, e 2 miliardi e 8 in termini di saldo netto da finanziare. Però ci sono dentro la bozza sgravi per incentivare il lavoro femminile, 400 milioni per i vaccini e cure anti-Covid, niente tasse sul cashback per gli acquisti con carta e bancomat, che dovrebbe scattare già sui pagamenti elettronici di dicembre. Abbiamo spiegato molte volte che cosa significhi il cashback e quindi che cosa possa tornare, come se tu fai effettui il pagamento con le carte, bancomat o carte di credito, una parte ti viene ritornata. Ancora, la manovra dovrebbe valere 38 miliardi, compresi i fondi europei, 3 miliardi per l'assegno unico che diventano 5,5 nel 2021, rifinanziamento della cassa integrazione Covid per oltre 5 miliardi. Così a prima vista a me sembra un po' debole, cioè come risorse, la parte che riguarda i finanziamenti, il fondo per le attività più colpite dalla pandemia. Perché 4 miliardi per le imprese con cali di fatturato di almeno il 30% mi sembrano poco, visto quello che abbiamo speso solo per il mese di ottobre sostanzialmente, con le nuove chiusure per il Ristori 1 e poi il Ristori 2, appunto assieme fanno 5 miliardi quasi, solo la parte di Ristori. E di questo parleremo, recupereremo anche la startup del venerdì che non eravamo riusciti a esaurire. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia su Radio 24, la diretta su Facebook. Notizie di carattere generale, di carattere internazionale. La Cina nel fine settimana ha firmato con 15 paesi dell'Asia Pacifico un accordo di libero scambio, anzi è il più grande accordo di libero scambio al mondo. Sono le 10 economie dell'ASEAN insieme a Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia, che rappresentano circa il 30% del PIL globale. L'India non ha firmato sul timore di un aumento del suo deficit commerciale con la Cina. Io adesso ci sono 20 capitoli di regole, immagino che tutti i paesi abbiano valutato attentamente. L'esperienza nostra è che la Cina tende a firmare accordi sempre molto vantaggiosi per se stessa, ma dalla Cina noi ci aspettiamo ancora, magari saremo gli ultimi giapponesi a chiederlo, ma ancora spiegazioni sulla nascita e circolazione del vaccino, quanto sembra emergere da una ricerca italiana sui tumori, anche da altri casi singolari. Sono arrivati in Italia test serologici, test per quello che riguarda test veri e propri, che venivano dalla Cina ed erano targati settembre 2019 come data di produzione. Ora noi ci teniamo ancora di capire quando la Cina ha veramente capito che circolava il virus. Poi certo, sono contento per i cinesi che si rafforzi la loro produzione industriale più 7%, e continua a aumentare la fiducia dei consumatori. Io spero che però i politici nostri, l'opinione pubblica, non si dimentichi l'atteggiamento della Cina in questa pandemia, e non è che poi passata la festa ha gabbato lo santo, perché se vogliamo essere seri, se vogliamo essere schiavi, allora facciamo prima a prendere tutta la via della seta, Belt and Road, così com'è, con tutte le frecce che vanno dalla Cina verso l'Europa e verso l'Italia, che vuol dire che l'immagine è di una Cina che esporta ancora di più verso il nostro paese, verso il nostro continente. Se vogliamo essere un po' più seri, forse ricordare alla Cina che il mondo non è fatto solo di scambi, ma anche di correttezza negli scambi, di pratiche, che non basta pagare campagne di comunicazione, magari avere partiti vicini, no? Se poi non ci fai sapere nulla da mesi sul reale sviluppo del virus, non accetti una commissione d'inchiesta, niente. Poche notizie dall'Europa, anche se c'è un veto di Polonia e Ungheria sul bilancio dell'Unione Europea I due stati membri hanno espresso la loro posizione rispetto a un elemento del pacchetto, la condizionalità sullo stato di diritto, ma non sull'accordo, sulla sostanza dell'accordo. Per ora, per arrivare all'ok, all'intesa sul bilancio e sulle risorse proprie per avviare il recovery fund, occorre il voto all'unanimità. Invece, per il via libera all'accordo sullo stato di diritto è prevista solo la maggioranza qualificata. Ecco perché è passata la condizionalità sullo stato di diritto, mentre l'accordo sul bilancio ancora no. Italia, vabbè, oggi la Banca d'Italia ci fa sapere che c'è un nuovo record in valore assoluto del debito pubblico, 2.586 miliardi di euro, il 3,8% in più a fine settembre rispetto al mese precedente. Le entrate tributarie a settembre erano in aumento però rispetto a settembre 2019, più 6%, 1,7 miliardi. Però nei primi 9 mesi dell'anno le entrate tributarie sono state pari a 288 miliardi, con un calo di 17 miliardi rispetto ai primi 9 mesi del 2019, un calo del 5,6%. Interessante però notare una cosa: da un lato l'inflazione a ottobre lì è stata confermata che si è in deflazione, c'è meno 0,3% ottobre, sesto mese consecutivo di prezzi in calo, anche se si è dimezzato il calo rispetto al mese precedente. Per quello che riguarda il carrello della spesa, quindi i prezzi a maggior frequenza d'acquisto, beni alimentari per la cura della casa, della persona, hanno fatto più 1,2% rispetto al mese precedente. In particolare sono cresciuti i prezzi dei vegetali freschi e anche la frutta fresca. Inflazione a minimi a Venezia, Milano e Roma, meno 1,4% a Venezia, meno 1,2% a Milano, meno 1% a Roma. L'inflazione più alta è a Bolzano, più 1%, Perugia, più 0,7%, Trento, più 0,6%. Però la cosa interessante, dicevo, è che l'Associazione delle Banche Italiane fa notare che anche a ottobre c'è stato un nuovo forte balzo dei depositi bancari, più 9,5%. Ecco perché, appena riusciremo a uscire da una gestione emergenziale, sarà importante dare sì i ristori a chi ha avuto crolli di fatturato superiore al 30%, ma attenzione, perché quello che noi vediamo è che stanno aumentando moltissimo i depositi bancari. Ora, io non ho niente contro l'aumento dei depositi bancari, però non si può neanche far debito per permettere a me di aumentare il mio conto corrente bancario. Perché questo avviene? Chiaramente perché c'è una sfiducia e una forte incertezza sul futuro, quindi non vai a fare investimenti e non fai acquisti. Ma prima o poi bisognerà anche interrompere questo circolo, magari puntando più sul lavoro che sui sussidi, più sulle agevolazioni per ripartire con assunzioni e con il lavoro, agevolazioni anche fiscali, che sui ristori. Ripeto, nulla contro i ristori come elemento emergenziale. Però attenzione a non creare un paese che, insomma, viene mantenuto, e soprattutto in alcuni casi, come vediamo dai dati sui depositi bancari, guardate che quasi il 10%, se voglio dire 1.714 miliardi di euro di depositi bancari, sono 150 miliardi di euro di depositi in un mese in più, e sono 150 miliardi di soldi non spesi. Uno potrà obiettare, certo, buona parte degli esercizi commerciali sono chiusi, i bar e i ristoranti nelle zone rosse sono chiuse, nelle zone gialle chiudono alle 18, i negozi in generale sono chiusi nelle zone rosse, e c'è minor propensione alla spesa, non si può viaggiare, non ci si può spostare, per carità, non sto dicendo che uno debba spendere per forza, però sto dicendo che questo dato sui depositi bancari deve fare aprire gli occhi anche a chi vede solo la parte di ristori. No, c'è una parte di italiani che sta aumentando i depositi bancari, che magari sarà pronto a spendere quando vi saranno garanzie anche di una situazione, diciamo, più sotto controllo. Non ho detto che chi ha il reddito di cittadinanza stia risparmiando, non penso proprio, però però dico solo che, se vogliamo avere una visione non ideologica, cioè immaginare che tutta l'Italia sia in ginocchio e basta, c'è un pezzo d'Italia che, non potendo spendere, non volendo spendere, sta aumentando di mese in mese. Il mese prima ha fatto più 7%, a maggio più 8%, quello che mette sul conto corrente. Allora attenzione, siccome poi i soldi che stiamo dando sono soldi pubblici, cerchiamo di darli in maniera molto oculata e soprattutto poi a un certo momento dare le possibilità, sgravi fiscali, più che dare solo i soldi una tantum. Allora andiamo, tra l'altro parleremo anche della cassa integrazione a brevissimo, perché solo 24 ore di oggi segnala un ritardo. Io non so cosa ne pensi Tridico, sicuramente voi sapete cosa ne penso io di Tridico, ma insomma un ritardo inaccettabile. Qualcuno mi scrive invece di Arcuri sui vaccini, non lo so. Allora il dubbio a tutti è venuto, quante cose deve fare Domenico Arcuri, è ovvio che è venuto a tanti, perché è anche numero uno di Invitalia, ha il dossier ArcelorMittal per esempio da gestire, non solo quello, c'è tutta la parte che riguarda l'emergenza ancora sanitaria, adesso la parte dei vaccini, non lo so, io non so dirvi se sia troppa roba. Ecco, suggerirei al governo di non dare altri incarichi, possiamo metterla così, perché mi sembra già tantissimo quello che deve fare, nella speranza che lo faccia bene e non sia solo un problema di incarichi. Per cui a un certo momento va bene, noi da sempre siamo anche per strutture più snelle commissariali, cioè più veloci, attenzione che non sia troppo, ecco. Allora qualcuno mi scrive, si chiamano statali, dipendenti pubblici, visto che non hanno avuto alcuna cassa integrazione e alcun licenziamento. Sì, per carità, sono d'accordo, può essere anche appunto che uno non sappia che cosa, non sappia spendere questi soldi, quindi mica è obbligato a comprarsi non so, un capo d'abbigliamento per forza, se poi i negozi sono chiusi non sa dove andare. Non sto dicendo che sia una scelta magari anche di buon auspicio, per quando dovessero esserci situazioni più chiare e più rasserenanti che si potrà tornare a spendere. Una cosa, vedo che mi scrivete ancora su la scuola, guardate, io ho visto oggi un'intervista del capo del CTS Miozzo che ho trovato assolutamente condivisibile, perché non vorrei, a partire dai presidenti delle regioni e dai sindaci, che il tema scuola fosse stato ormai archiviato. Tanto abbiamo chiuso in Lombardia subito tutte le scuole superiori, anche i primi anni, poi anche le medie, si salva la prima media. Il governo inizialmente aveva detto 75%, no, non vorrei che fosse, cioè, non vorrei che adesso, siccome tanto le abbiamo chiuse, i ragazzi stanno a casa, grazie, arrivederci. Io immagino che gli assessorati preposti in Lombardia, in Campania, nelle regioni dove si è fatto il 448 a chiudere, in Puglia, anche nelle altre ovviamente, stiano lavorando alacremente, immaginando soluzioni che non avevano trovato per far tornare un po' in presenza gli alunni delle superiori e delle medie superiori e anche in parte delle medie inferiori. Noi battiamo molto su questo tema, Piera Ceci ogni lunedì ha un appuntamento all'interno del programma di Alessandro Milan, Uno Nessuno Centro Milan, ma dico, non vorrei che dopo tutta la pantomima dei banchi con le rotelle, che poi abbiamo capito che non erano la priorità, stiano lavorando con le municipalizzate per capire che scaglionamento si può immaginare, magari ragazzi che vanno a scuola solo una o due volte a settimana a un massimo di 25%, solo nell'orario del pomeriggio, non intasando tra virgolette i mezzi pubblici, in cui si alterna didattica a distanza, in cui si chiedono ai presidi e ai direttori dei plessi un'organizzazione un po' più articolata, una classe che, cioè, state lavorando su questo, non è che adesso siccome avete chiuso le scuole basta, grazie, arrivederci e grazie al secchio. E giustamente Miozzo dice è l'emergenza numero uno per un paese serio che immagina anche di avere un futuro. Se un paese non immagina di avere un futuro, allora se ne frega completamente dei suoi figli e pensa solo all'immediato presente. Magari è al consenso immediato, ma non voglio tornare sulla polemica di lunedì con i governatori delle regioni, al consenso immediato da capopopolo. Se un paese ha un'immagine di futuro, si occupa dei suoi giovani, che dovrebbero essere quelli che restano dopo di noi, no? Almeno per chi ha la mia età. Però e quanto ai governatori delle regioni, qualcuno mi sta continuando a scrivere e attaccare. Adesso ascoltiamo Zaia, che questa mattina era ospite di Radio 24. Ho detto venerdì che poi, come sempre nelle cose, c'è differenza tra una regione e l'altra. Ho solo detto che secondo me, col caos che è venuto fuori, la riforma dell'articolo 5 non la regge più sto paese, quando si va in sovrapposizione e scontro tra Stato e Regioni, che non mi è piaciuto il gioco di molti governatori. E aggiungo, visto che qualcuno mi scrive, guardate che è inutile che De Luca, così tiro nome e cognome, dica io volevo chiudere da ottobre. I governatori, vale per De Luca, per Fontana, per Emiliano, per Cirio, per chi volete, hanno tra le loro facoltà la possibilità di chiudere, così come i sindaci possono fare misure più restrittive. Quindi di cosa stiamo cianciando? Se tu, governatore X, eri interessato, ritenevi di dover chiudere a ottobre, potevi chiudere tutto ottobre, anche a settembre, anche ad agosto, quando cavolo volevi. Problema che avevi paura di restare col cerino in mano, ok? Diciamola tutta. No, perché non se ne può più. Io avrei chiuso, io avrei fatto, io ero per, schiaffo in faccia, colpo di sta. Allora, ancora un dato che riguarda i prestiti bancari. Abbiamo detto hanno fatto più 4,7%, e anche questo è buono, trainati dalle imprese, dei prestiti alle imprese. Invece la SIAE ha fatto notare che l'effetto Covid sul mondo dello spettacolo peserà per un meno 65% nei primi 6 mesi 2020 della spesa al botteghino, ingressi meno 61%. Dunque, sono poi la Svimez calcola che sono 45.000 lavoratori delle grandi aziende del nord che lavorano in smart working dal sud. È un'inchiesta interessante, un'indagine si chiama South Working per conto della Svimez su 150 grandi imprese con oltre 250 addetti. Il dato, prosegue la ricerca, potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Si stima che il fenomeno infatti riguardi quasi 100.000 lavoratori, diciamo, che originari del sud lavorano, fisicamente lavoravano in aziende del nord. Allora, il presidente del Veneto Luca Zaia, io non ho nessun motivo a riconoscere che Zaia si è mosso molto, molto meglio di altri, ma poi numeri alla mano. Oggi ho visto che ha fatto anche questi tamponi veloci in conferenza stampa. Il Veneto oggettivamente ha, vista dalla Lombardia, ha una presenza della medicina sul territorio encomiabile, di cui siamo tutti invidiosi. Sarà un caso, ma è ancora zona gialla. Però sulle zone, ha detto Zaia oggi a 24 mattina con Simone Spezia, il metodo deve essere modificato. È un'utopia pensare che uno metta 21 ingredienti nel frullatore e venga fuori un prodotto finito. Questo metodo l'abbiamo provato come regioni ed era sostanzialmente un'occasione per avere un benchmark, no? Un punto di riferimento. Poi è diventato un elemento di giudizio. Io penso che dovrà essere modificato. Un'utopia pensare che ci sia un frullatore nel quale tu metti dentro tutti gli ingredienti e ne viene fuori un prodotto finito. Ed è anche abbastanza aleatorio pensare che possa esistere un algoritmo che poi sia l'esatta, ci dia l'assoluta immagine della realtà. La verità è che poi ci vuole buon senso, ci vogliono anche delle valutazioni che vanno al di là poi dei numeri. Faccio un esempio: noi abbiamo fatto come tre zone gialle, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, abbiamo portato avanti questa ordinanza, come l'ho chiamata io, della zona gialla plus. Pensare che Veneto sia rimasto in zona gialla e che le altre due regioni fossero così devastate da passare in zona arancione, decisamente no. La verità è che questa è la follia a volte anche dei numeri, no? delle formule. Poi ci sono degli elementi da valutare che hanno un elevato valore di discrezionalità. Ancora, dunque, vedo molti messaggi che dicono: guardate che però i governatori e i sindaci avevano il timore di chiudere e di non avere ristori su base nazionale. Per carità, voglio dire, mica chiudevi dalla mattina alla sera, ti mettevi d'accordo con il governo, dici: vogliamo un piano di ristori perché andiamo con delle chiusure, tanto poi il piano dei ristori è arrivato. Noi avremmo chiuso ottobre, ma il governo non ci ha dato la certezza dei ristori. Ma il messaggio è un po' diverso, abbiate pazienza, non sono così sciocco da non capirlo. Comunque, sempre Zaia questa mattina alla Radio 24, per quello che riguarda, ho già detto del test fai da te fatto in diretta, poco più di un minuto e mezzo di tempo, risultato negativo per inciso. E ha detto Zaia sul tampone fai da te, praticamente abbiamo seguito la realizzazione di questo tamponcino in 2 settimane. Abbiamo seguito la realizzazione di questo tampone, diciamo fai da te, un tamponcino grande come un cotton fioc, che poi ha già un suo reagente e fa la reazione con la solita saponetta. Abbiamo già iniziato a Nord Alvero la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti, dà già risultati incoraggianti. Adesso si tratterà di fare una sperimentazione bella profonda, i pazienti ci sono e quindi abbiamo anche modo di avere massa critica e dati per analizzarli. Io penso che verosimilmente la sperimentazione la si possa fare con velocità nel giro di massimo un paio di settimane. Consideri che abbiamo già iniziato, il dottor Rigoli sta lavorando almeno da 3 mesi a questo progetto. Andiamo su meteo e pubblicità, poi parliamo di cassa integrazione e anche di reddito di cittadinanza. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus economia. Allora, mentre sul reddito di cittadinanza ci sono nuovi dati oggi, a ottobre nella provincia di Napoli ci sono state 126.000 famiglie che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza, che è un numero superiore a tutte le famiglie di Lombardia e Veneto. Da un lato si giustifica anche con le diverse condizioni, dall'altro secondo me intercetta anche chi fa nero e prende comunque il reddito di cittadinanza, no, non posso non dirlo. Perché il numero è stratosfericamente più ampio, cioè Lombardia e Veneto assieme mettono 126.000 persone come la sola Napoli. Cioè, adesso stiamo parlando di 11 milioni più 5, 16 milioni mai contate di persone che hanno, dove c'è un'incidenza del reddito di cittadinanza identica a quella della sola Napoli. Qualcosa non gira. Comunque è scaduto per 381.000 famiglie e comunque dato a 970.000 famiglie. Invece per quello che riguarda la cassa integrazione, come segnala oggi il Sole 24 Ore, perché scatta con la nuova tranche di cassa integrazione prevista dal primo DL Ristori, perché come ricordavo il primo DL Ristori ha una quota che serve per il primo giro di Ristori, scusatemi il gioco di parole, ma poi ha anche una quota che riguarda invece la cassa integrazione. Però come ha segnalato anche un articolo di Valentina Melis, che ringrazio, buonasera Valentina, del Sole 24 Ore. Sebastiano, agli ascoltatori. Qui sta diventando una specie di saga, perché se ascoltiamo Tridico dice no, le casse integrazione da pagare ancora pochissima, fermo restando che io sono d'accordo con chi dice anche 17.000 persone, che sono 17.000 famiglie, sono tante. Però tu segnali un'altra cosa nell'articolo di oggi sul Sole 24 Ore, e cite le stime del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, 180.000 domande presentate dalle aziende ancora in attesa del via libera. Se leviamo le 98.000 richieste arrivate a ottobre, perché insomma non si può considerare un arretrato, ne restano 81.000 giacenti e da almeno 45 giorni, alcune delle quali risalgono a marzo e aprile. Prima domanda, quante di queste sono casse integrazione ordinaria e quante in deroga? Non perché i lavoratori siano diversi, ma perché è ancora più inaccettabile se questo riguardasse l'ordinaria. Ma allora, in realtà di questo arretrato di 81.000 domande, il 66%, cioè 54.000, riguarda proprio la cassa in deroga. Questo perché la cassa in deroga ha avuto un iter un po' tormentato. Ricorderai, la prima tranche di 9 settimane si doveva chiedere alle regioni, poi è passata all'INPS e quindi questo ammortizzatore in particolare, che è stato ripristinato anche per le piccolissime imprese, ha avuto un iter piuttosto tortuoso. Comunque ci sono 54.000 domande di cassa in deroga non ancora autorizzate, che corrispondono a 140.000 lavoratori, secondo la stima che riportiamo oggi. 12.000 domande sono di assegno ordinario FIS e 15.000 di cassa ordinaria. Però attenzione, il numero di addetti delle aziende che chiedono la cassa ordinaria è mediamente più alto, e quindi i lavoratori che, secondo la nostra stima, sarebbero a rischio di ritardi per quanto riguarda la cassa ordinaria sono 195.000. Quello che dicevi tu è corretto, le stime di cui parlavi dei 14.000 in attesa di pagamento, cioè non è che le stime diffuse dall'INPS non siano corrette, stiamo parlando di due stime diverse. Noi oggi abbiamo guardato alle domande arretrate, cioè alle domande che fino a settembre sono state presentate dalle aziende e non hanno ancora avuto autorizzazione. I numeri che diffonde l'INPS si basano su i pagamenti diretti che l'INPS fa, che riguardano 3 milioni di lavoratori, perché ricordiamo che la platea della cassa è molto ampia, 6 milioni e mezzo di lavoratori finora di cassa Covid, 3 milioni e mezzo li paga direttamente l'INPS, 3 milioni vengono, diciamo, ricevono l'anticipazione dalle aziende. L'INPS si riferisce ai 3 milioni e mezzo che paga direttamente, guarda ai modelli SR41, cioè all'ultimo anello di tutta la catena richiesta, autorizzazione, erogazione, e dice: di questi a me mancano 207.000 assegni mensili. E i lavoratori che non hanno mai preso nulla sono 14.000. Quindi questo è lo spaccato su cui l'INPS ha diffuso dati ufficiali. Quello che noi oggi riportiamo è però tutto quello che viene prima, cioè tutte le domande che devono ancora ricevere via libera. E ovviamente senza un via libera non parte neanche l'iter per i pagamenti. Non parte neanche l'anticipazione dell'azienda? Esatto, allora qui bisogna precisare che alcune aziende nei mesi scorsi, tantissime aziende anticipano la cassa e poi recuperano le somme a conguaglio. Molte aziende hanno anticipato la cassa anche senza il via libera formale dell'INPS, diciamo mettendo in busta paga quello che dovevano e poi confidando in questo recupero. Cosa è successo? In questi ultimi mesi però anche il pagamento diretto da parte delle aziende rischia di scontrarsi con una serie di problemi di liquidità, per cui se il pagamento diretto si protrae per diversi mesi, certo, in base al numero dei lavoratori, l'azienda potrebbe anche dire: io non riesco ad anticipare mesi di prestazione senza neanche il via libera che mi garantisca. Sì, che almeno ti garantisca. Ma infatti, e qui c'è il problema della lentezza dell'INPS. Io non voglio tornare su Tridico, penso banalmente che sia stato messo lì per sbaglio, che sia l'uomo sbagliato in quel posto, punto, ma lo pensavo anche prima, così come lo penso di Parisi sul reddito di cittadinanza, penso che vabbè. Però il problema, al di là di Tridico, non si può giocare le tre carte dell'INPS, perché tu hai chiarito molto bene che ho capito che quelli che a te risultano mancanti come pagamenti diretti sono solo, tra virgolette, 17.000. oddio, se tutti questi 17.000 con le loro famiglie dovessero presentarsi a casa di Tridico, si creerebbe un leggerissimo assembramento, perché non sono pochi 17.000 lavoratori e famiglie annesse, e in realtà poi a cui si sommano 17.000 che non hanno mai ancora presa e qualche altro centinaio di migliaia, 200.000 su cui c'è un ritardo. Tu in realtà dici: attenzione, perché poi tutte quelle che devono essere erogate, la metà, dalle aziende, siccome c'è un ritardo complessivo anche nel dare il via libera, dire ok, anticipa tu la cassa integrazione che poi vai a conguaglio, fra un po' le aziende avranno due problemi, li hanno già. Uno, per quanto mi fido che tu mi dia il via libera poi ex post. Due, io quant'è che posso continuare a anticipare a conguaglio? Se fatturo, se sono un manifatturiero che ancora sono aperto, sì, ma non in altro genere. Resta con noi comunque Valentina, perché ho ancora una domanda da farti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Valentina Melis, Volevo capire se dai dati che avete analizzato, che stiamo parlando comunque di quasi 800.000 imprese che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione da marzo in poi, e la soglia record di 3 miliardi di ore di CIG concessa, se tu dai dati che hai analizzato noti comunque volevo dire lo svuotamento dell'imbuto, ma insomma noti che le pratiche accumulate si stanno riducendo o è invariato, addirittura peggiorato il tasso di rallentamento, mettiamola così. Ma allora, noi il presidente del Consiglio di indirizzo di vigilanza dell'INPS, Guglielmo Loi, ha detto che ci sono dei segnali di miglioramento, e anche dagli altri interlocutori che io ho sentito, imprese, sindacati, pare che fino a luglio l'arretrato sia stato più o meno smaltito. Poi che cosa è successo? È arrivato il decreto agosto con la seconda grande tranche di cassa, cioè le seconde 18 settimane, le prime gratis, tra virgolette, le seconde 9 con un contributo da parte delle aziende. Sì. E quindi si è creata una grande platea di richieste, e da luglio in poi pare che ci siano stati dei nuovi rallentamenti. Poi cosa è successo? Il mese di ottobre, che noi non consideriamo come arretrato, ma per darti un quadro della situazione, da solo ha fruttato 98.000 richieste. Quindi vuol dire che questo flusso... perché sono tornate le chiusure, giustamente, questo flusso comunque rischia di aumentare. È per questo che l'INPS ha costituito una task force, che quindi da un lato vuol dire che il problema dei ritardi c'è, perché se hanno costituito un pool ad hoc vuol dire che il problema dei ritardi, delle domande arretrate c'è, e dall'altro però vuol dire che è ben presente e si sta cercando di affrontarlo. Volevo segnalarti un'altra cosa, che nella mole enorme di domande di cassa che l'INPS ha ricevuto in questi mesi è anche probabile che, diciamo, chi si è trovato a gestirle abbia gestito, come dire, prima quelle che si riusciva magari a processare con più rapidità e abbia un po' accantonato quelle più critiche, ed è per questo che noi abbiamo ancora qualche domanda di marzo e di aprile, perché probabilmente nella mole enorme di richieste, come dire, ho 100 domande, lascio le due più difficili, mi faccio intanto le altre. Oddio, quando io studiavo, quando io studiavo era buona regola, c'erano due approcci diversi, c'era quello che faceva gli esami più facili e si teneva per ultimo i fondamentali, e c'è quello che faceva l'opposto. L'importante è poi che vengano andati tutti, se non vorrei che si andasse avanti a processare, appunto, come dici tu, solo quelle... quelle... No, è un'ipotesi che si faceva, perché è talmente ampia la platea di, come dire, di domande che l'INPS ha ricevuto. Storicamente non è mai successo. No, ma qui io non voglio adesso, cioè, che ci sia un periodo eccezionale, e non sto dicendo che quello che si è chiesto all'INPS è un'operazione trasparenza, non negare che ci sia un'operazione eccezionale di distribuzione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria in deroga, ma appunto dateci il numero esatto, perché 17.000, che sono sempre tantissime, poi non corrispondono neanche largamente al numero reale. Grazie a Valentina Melis del Sole 24 Ore, e noi invece riprendiamo la startup della, dopo la classifica di venerdì, perché venerdì purtroppo siamo usciti solo a salutare Alessandro Rinaldi. Alessandro Rinaldi, dicevo, amministratore delegato di Help4U, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa fa Help4U? In quanti siete? Chi vi ha aiutato? Quanto fatturate? Quanti anni ha lei? Un fiorino. Perfetto. Dunque, Help4U è una società che aiuta le piccole e le micro imprese a digitalizzarsi in maniera rapida e a costi assolutamente contenuti. Siamo nati nel 2015, siamo nati all'estero e siamo arrivati in Italia solamente da qualche mese. In Italia siamo presenti da luglio. In tutto siamo meno di 10 persone, e nel 2019 siamo riusciti a fatturare 1,5 milioni all'estero. Ma voi quindi fate consulenza alle piccole e medie imprese per digitalizzarsi, diciamo? No, in realtà noi forniamo alle piccole imprese una piattaforma digitale, completamente digitale, una piattaforma SaaS, che permette in completa autonomia a queste piccole imprese che si iscrivono alla piattaforma di digitalizzarsi. Che cosa intendo per digitalizzarsi? Intendo creare il proprio sito web, accettare prenotazioni online 24 ore su 24, accettare pagamenti online, mandare fatture elettroniche, gestire i propri clienti e molto altro. Tutto in maniera assolutamente autonoma, quindi senza bisogno di avere un innovation manager piuttosto che qualcuno che sia in grado di digitalizzare la società, ma attraverso questa piattaforma viene creata la digitalizzazione. Allora, lei resti con noi, perché dopo il GR24 vorrei solo sapere cosa faceva prima, chi vi ha aiutato a lanciare questa startup. 349-238-6666 per sms e whatsapp. C'è un'ultima ora: il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato il testo ora della legge di bilancio. Ne parleremo alle 18.07. Luna dopo luna scorre il tempo. Il profumo diventa più intenso, il gusto più elegante, il colore più caldo. Ecco le 18 lune, l'arte del saper aspettare. Grappa Stravecchia alle 18 lune di Marzatro. 2020, anno da dimenticare o anno per ripartire? In questi mesi molte imprese tagliano solo i costi e tentano di recuperare fatturato. Non accontentarti! Con Gruppo Finservice vai oltre la ripresa. Oltre 300 consulenti in finanza agevolata ti aiuteranno a ottenere tutti i contributi nazionali ed europei che ti spettano subito. Chiama Gruppo Finservice 800 94 24 24. Riparti con Gruppo Finservice, leader della finanza agevolata. Oggi le nostre certezze cambiano sul lavoro. Scusate, ero in muto. Nel tempo libero. Come si accende questo monopattino? Papà, te l'ho appena spiegato! Oggi le nostre certezze cambiano su tutto, ma almeno sull'energia possiamo stare tranquilli. Con Enel One di Enel Energia, scegli il piano più adatto a te e se consumi di meno o di più, gestisci tutto con il tuo salvadanaio direttamente dall'app, con una monetizzazione annuale. Vai su Enel.it o vieni nei nostri negozi spazio Enel. Enel Energia per il mercato libero. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba, è l'equivalente di una firma autografa ed ha quindi pieno valore legale. Attivala online. Vai su aruba.it. Ciao, sono Marco, Marco Casa, falegname, commercialista e social media manager. So fare tutto, proprio come il mio Citroen Jumpy, con capacità di carico fino a 1400 kg. A novembre scopri la gamma veicoli commerciali Citroen. Jumpy tuo con anticipo zero da 225 euro al mese, IVA esclusa con leasing pro. TAN 2,99, TAIG 4,74, salvo approvazione Banca PSA Italia. Scopri anche il nuovo Citroen e-Jumpy 100% electric, con 330 km di autonomia. Info su citroen.it. Citroen. Azimut Peerbox eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa Peer Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Focus Economia. Minuti. Dunque, Alessandro Rinaldi, amministratore delegato di Help for You. Chi vi ha Help for You? Chi ha aiutato voi e soprattutto che cosa faceva prima? Com'è che è arrivata la decisione di fondare Help for You? Sì, dunque, prima di fondare Help for You io ero un executive per una multinazionale, ho lavorato per 5 anni con loro all'estero e gestivo tutta la practice di cyber security. Ho sempre lavorato nel mondo IT, ma ho sempre avuto il pallino imprenditoriale e ho deciso di fondare Help for You assieme a due altri soci all'estero. Abbiamo raccolto del capitale assieme, quindi dalle nostre finanze abbiamo investito per poter creare e avviare la società. Dopodiché siamo riusciti a raccogliere altro capitale, seed, che ci ha permesso di diventare leader di mercato negli Emirati Arabi. Sono arrivato in Italia da pochi mesi e qui in Italia ho cercato di fare un po' lo stesso processo che ho seguito appunto all'estero. Ho raccolto del capitale attraverso dei colleghi di un executive MBA che ho seguito fino al 2015. Assieme abbiamo fondato questa nuova realtà italiana. E da qui siamo partiti per cercare nuovo capitale. Allora, in bocca al lupo a lei e ai suoi soci e ai suoi dipendenti. Grazie anche a Alessandro Rinaldi, appunto amministratore delegato di Help for You. E adesso la manovra. Dunque, 38 miliardi compresi i fondi europei, 228 articoli, 3 miliardi per l'assegno unico che dovrebbe diventare 5 miliardi e mezzo nel 2021, il rifinanziamento della cassa integrazione Covid per oltre 5 miliardi, questi, e poi dentro anche i decreti ristori. Ora, la cosa che a me sembra più debole, lo dico per mettere le mani avanti, dell'impianto che ho visto è la quota destinata ai fondi per ristori delle attività più colpite, altri 4 miliardi per chi avrebbe avuto cali superiori al 30%. Gianni Trovati, buonasera. Gianni Trovati, non lo sento. Vediamo se riesco a recuperare Gianni intanto, perché poco fa le agenzie hanno battuto il via libera dei consigli dei ministri alla manovra. Allora, poi vi dovrebbe esserci 2 miliardi per edilizia ospedaliera delle RSA, delle residenze per anziani, ancora per il lavoro femminile lo sgravio al 100% dei contributi fino a 6.000 euro, un valore complessivo di 400 milioni. Ecco Gianni Trovati, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Dicevo, non so se mi stavi sentendo, che la parte più debole, va benissimo i 400 milioni per scusatemi, gli sgravi rosa per il lavoro femminile, i 400 milioni per vaccine e cure anti-Covid, niente tasse sul cashback, quindi sulle agevolazioni che tu hai quando usi denaro in contanti, con la carta. Però si mancava solo quella. Mi sembra un po' debole i 4 miliardi per i ristori futuri. Lo è debole, tanto è vero che lo stesso governo ha in mente di predisporre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, uno o addirittura due ulteriori decreti ristori, ma per farlo prima serve un nuovo spazio di bilancio con il nuovo scostamento, e per fare lo scostamento prima bisogna incardinare la manovra in Parlamento. Insomma, è una roba a catena. I 4 miliardi previsti dal testo della legge di bilancio oggi all'esame del Consiglio dei Ministri sono sostanzialmente un'eredità della situazione di inizio ottobre, quando la manovra è stata pensata. È stata pensata in un contesto nel quale la seconda ondata non era immaginata così grave, non c'erano i nuovi DPCM con le zone rosse, arancioni e gialle, e quindi si pensava di chiudere con questi 4 miliardi un po' la parentesi dell'emergenza. Invece non è più così, lo scenario è molto evoluto, servono nuovi soldi e nuovi decreti e dovrebbero arrivare. Allora Gianni, l'altro elemento, questa manovra tiene dentro anche i due decreti ristori. Ricordavo che il primo decreto ristori vale 6 miliardi e 2, però attenzione perché dentro c'è anche la cassa integrazione, quindi sono 2 miliardi e mezzo di fondo perduto per attività chiuse o danneggiate dai lockdown e 2 miliardi e 2 di cassa integrazione, poi il secondo invece in termini sempre di saldo netto da finanziare 2 miliardi e 8. A, sono inclusi, B, la parte dei soldi europei, non capisco. La parte dei soldi europei non si capisce, perché ancora non si capisce bene qual è il destino dei fondi europei, e soprattutto nei testi circolati finora, compreso quello preparato dal Consiglio dei Ministri, il fondo italiano che dovrebbe anticipare i fondi europei è accompagnato da tante X, nel senso che non è quantificato. Il meccanismo però è quello di un fondo rotativo che dovrebbe appunto anticipare le risorse che poi arriveranno con il Recovery Fund e quindi permettere, diciamo così, l'avvio dei progetti di investimento, sempre che noi siamo in grado e riusciamo a fare il recovery plan, prima, qualche mese prima dell'arrivo dei fondi europei, che con tutte le incertezze del caso sono attesi per la metà del 2021. Insomma, per non stare fermi fino a metà del 2021 si è pensato a un fondo rotativo, ci mette l'Italia dei soldi che poi vengono compensati, rimborsati, diciamo così, dal meccanismo europeo. Tutto questo è naturalmente avvolto dall'incertezza, perché i negoziati sia comunitari sia quelli interni al governo per preparare il recovery plan sono ancora in pieno corso e il traguardo è ancora lontano. Per quel che riguarda i ristori, la manovra incrocia sostanzialmente i due decreti ristori, e con una sorta di evoluzione, diciamo così, del bicameralismo, della manovra si occupa la Camera, dei decreti ristori si occupa il Senato. Se arriveranno ulteriori, come appunto sempre, come dicevamo, decreti per ulteriori ristori, poi bisognerà vedere come farli confluire dentro un'unica programmazione di bilancio, perché per ora la manovra è ancorata al programma di finanza pubblica che abbiamo fatto a ottobre, ma lo stesso governo che oggi ha approvato la manovra è intenzionato, nel corso di questa stessa settimana o al più tardi all'inizio della prossima, a aggiornare quel programma di finanza pubblica ad aumentare il deficit. Sui ristori, questa mattina il sottosegretario del Ministero dell'Economia e Finanze Alessio Villarosa ha detto: attenzione, bisognerà arrivare a un nuovo metodo di calcolo su base annuale, anche perché se va avanti di mese in mese diventa un incubo. Sentiamo Villarosa. Bisognerà sistemare il metodo di calcolo, bisognerà fare un calcolo che non è più sul mese di aprile, ovviamente bisognerà farlo su un periodo semestrale, un periodo annuale, bisognerà modificare il metodo di calcolo per le start-up e poi dare ulteriori ristori, respiri su affitti, quindi crediti d'imposta, quelli che abbiamo dato finora al 60%, provare ad aumentarli fino all'80%, insomma, più che altro risorse a disposizione per le imprese per fargli superare questi periodi di chiusura non derivante da una loro scelta, ovviamente. Sì, e bisognerà anche usare forse meno il futuro e condizionale, aggiungo io, cioè parlateci di progetti allo studio in divenire, lo dico in generale perché... Allora, e invece per quello che riguarda, vedo alcune domande, sì, gli sgravi fiscali, credito d'imposta negli investimenti al sud per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e viene prorogato al 2021, lo sgravio del 25% per le grandi imprese il cui fatturato è di almeno 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro. Allora vedremo poi che cosa integrerà, come spiegava bene Gianni Trovati, la manovra. I 2 miliardi sono confermati per l'edilizia ospedaliera e il sgravio per il lavoro femminile al 100% dei contributi fino a 6.000 euro. Grazie intanto a Gianni Trovati. Adesso andiamo sul traffico e poi il boom di borsa con l'annuncio del farmaco del vaccino di Moderna e il ragionamento speculazione o riposizionamento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dicevamo le borse e i vaccini, senza fare appunto le mezze vergini, è ovvio che il mercato si entusiasmi, l'ha fatto quando per prima è uscita Pfizer con l'annuncio di un vaccino da inizio anno con un grado diciamo di affidabilità al 90% come copertura e lo ha fatto anche oggi la borsa con l'annuncio di Moderna, vaccino efficace al 94,5%, quindi più alta l'efficacia dichiarata da Moderna rispetto a quella dichiarata da Pfizer, fino a 1 miliardo di dosi nel 2021 e poi la conservazione a temperatura standard tra 2 gradi e 8 gradi per 30 giorni. Meno 20 gradi per la tenerlo per 6 mesi, diciamo, e poi condizioni di trasporto e conservazione appunto più standard. Questo lo dico perché uno dei problemi sollevati dal vaccino della Pfizer è la conservazione a meno 80 gradi. Nel frattempo anche Janssen, società farmaceutica che fa capo alla multinazionale Johnson & Johnson, dice: siamo entrati nella fase 3. Aggiungo che c'è il prototipo messo a punto dall'Università di Oxford assieme ad AstraZeneca con la collaborazione dell'italiana IRBM di Pomezia, primo in assoluto in Occidente a entrare nella fase 3, e poi c'è il Novavax. Questi solo per citare alcuni dei vaccini più noti che sono entrati nella fase 3. Allora, la domanda che porremo come sempre ad Alessandro Paterotti per l'appuntamento quotidiano è ovvio che la borsa si sposti, si collochi sui titoli farmaceutici, ma c'è un reale ragionamento su quello che sarà poi ricavi, fatturato, l'effetto del vaccino, o c'è una semplice, tra virgolette, speculazione in assenza di grandi temi di mercato? Dietro la notizia. Allora, Alessandro Paterotti, buonasera di nuovo, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Speculazione pura, purissima, senza che questa abbia una connotazione per forza negativa, ma insomma, in assenza di grandi temi, si va a comprare quei titoli, o reale calcolo e posizionamento su quelli che potrebbero essere gli effetti anche economici, quindi anche di fatturato, nei gruppi farmaceutici impegnati nella ricerca di un vaccino anti-Covid? Beh, ti rispondo subito. All'interno di una cornice in cui il settore delle biotecnologie ha raddoppiato le sue quotazioni a partire dal marzo del 2020 a oggi, siamo all'indice Standard & Poor's, è passato da 5.000 punti a 9.500, quindi fatti un standard, parlo delle biotecnologie, quindi anche dei vaccini. Ma in realtà il problema è molto complesso, perché quello che sta avvenendo nel settore delle biotecnologie e farmaceutico è un po' l'indice della tanta liquidità che c'è e soprattutto di una febbre speculativa che sta cavalcando delle paure. Tenete presente che ci sono delle aziende, io adesso ne guardo una, la Novavax, che è una di quelle che sei mesi fa disse sono molto avanti nel vaccino, ha preso il 2000% dall'inizio dell'anno, ma di questo vaccino ancora non c'è traccia. Lo stesso vale anche per le grandi, facciamo attenzione, citavi il caso di Pfizer che ha preso il 14% il giorno dell'annuncio del test sul proprio vaccino, è in ribasso del 4,12% e addirittura è piatta rispetto ai livelli di maggio, quindi ha bruciato tutto il guadagno. Lo stesso vale per la BioNTech era l'alleata della Pfizer nello sviluppo del vaccino, grande volo, si diceva che il 90% era efficace, fatto sta che è tornata sotto i livelli precedenti. Moderna è un caso a sé, quella che citavi tu prima. Moderna in questo senso è quella che gode di più della fiducia degli investitori, e guardando il rapporto fra le valutazioni che ha raggiunto e quello che è lo sviluppo della ricerca che sta facendo, sembra, ma io dico sembra perché non facciamo raccomandazioni d'acquisto noi, sembra che sia quella che in questo momento ha il rapporto migliore fra le aspettative di utile, perché quando parliamo di borsa parliamo di utili, non di vaccini naturalmente, tra le aspettative di utile e quello che è la valutazione. Però chi non è pratico di questo mondo dovrebbe tenersene lontano, perché in realtà se andiamo a guardare chi sta facendo i più grandi guadagni sulle biotecnologie e i vaccini, sono in questo momento gli hedge fund, cioè i super professionisti. C'è una, soprattutto per un motivo, ci sono delle forze speculative che fanno sì che dal punto di vista della borsa non è importante puntare sul vaccino, perché storicamente i profitti non si fanno con i vaccini ma si fanno con i farmaci, e un investitore non guarda a un colpo e via, ovvero mi faccio un vaccino e sono a posto, ma ai trattamenti ripetuti. E infatti bisogna fare, chi vuole fare l'investitore di valore, il famoso value investor, dovrebbe andare a cercare più che altro le società che sviluppano i trattamenti per il Covid ma non i vaccini. In quel settore ci sono naturalmente delle potenzialità di lungo termine, perché sono trattamenti ripetuti, e allora in questo modo si può un po' riconiugare quello che è l'ottica del voler guadagnare un po' cavalcando dei trend, ma rimanendo con i piedi per terra e soprattutto con la testa sulla scienza. Sì, è fatto bene a chiarire da un lato la speculazione pura, che però appunto va a premiare un titolo e un altro e poi invece li mette a rotazione, come tu ricordavi, azzerando i guadagni di alcuni titoli a vantaggio di altri. Fermo restando, lo dico a chi scrive, che tutti abbiamo capito che non basterà un solo vaccino, che la richiesta sarà così alta che va benissimo che ve ne siano più di uno, ci mancherebbe, anche perché per ora siamo alle dichiarazioni. 1 miliardo di dosi nel 2021 è quello che ha dichiarato Moderna, sappiamo che bisognerà fare due vaccini, quindi comunque anche 1 miliardo di dosi, visto che dividi per due fa 500 milioni, non basteranno sicuramente. Però un conto è la speculazione di borsa sui singoli titoli, altra cosa è il posizionamento invece più da investitore strutturale sulle aziende farmaceutiche che svilupperanno le terapie per curare il Covid e che quindi non si esauriranno con il vaccino. Tu ti immagini che poi a un certo momento però questa così euforia si espanda? Oggi l'abbiamo visto in parte, l'abbiamo visto in parte anche quando accade con Pfizer, con l'annuncio di Pfizer, sul resto del listino, cioè che una volta chiarito che le grandi case, o non anche solo le grandi, ma insomma tra gennaio e febbraio inizieranno ad arrivare le prime dosi, il ragionamento si espanda a altri settori, per esempio quelli industriali più penalizzati rispetto all'high tech? Ma sicuramente ci sarà un riposizione. Quello che tutti si aspettano è questo, che il momento in cui arriveremo a un giorno meno del vaccino, ci sarà sicuramente un riposizione, una riallocazione di tutte le risorse che sono andate sul settore delle biotecnologie. Teniamo presente che sono circa 50 aziende in questo momento che sono impegnate nello sviluppo del vaccino, ma sono aziende che non sono a grandi capitalizzazioni, sono aziende di piccola media capitalizzazione. Allora qual è il punto? Il momento stesso in cui dovesse esserci una riallocazione delle risorse degli investitori fra settori, quindi mettiamo il caso che il primo che arriva sul vaccino farà da catalizzatore degli acquisti, molte aziende perderanno gran parte dei prezzi che hanno guadagnato finora sull'aspettativa, perché naturalmente chi arriva per primo in borsa è quello che vince. Però quello che ci si aspetta, che cos'è? Che gran parte delle risorse che sono andate in questi mesi all'investimento in biotecnologie avanzate, soprattutto le ricerche sul DNA, probabilmente si ridistribuiranno. Dove? Una parte, come vi dicevo, nel farmaceutico sicuramente, l'altro nel settore sanitario, perché quello che bisognerà stare attenti è questo, cioè la domanda complementare dei settori dell'indotto di questa filiera, perché non esistono soltanto farmaci e vaccini, ma tutto il sistema dei presidi sanitari, che anche quelli sono quotati. Tieni presente, Sebastiano, che quello che ti dicevo prima, attenzione, perché questi sono settori ad altissima rischiosità, quindi settori per investitori professionali. No, e fai bene a ricordarlo, perché un conto è l'analisi che facciamo con te, un conto è consigli o raccomandazioni che mai abbiamo dato in questi 20 anni, certo non inizieremo a dare adesso su titoli acquisto. Noi facciamo analisi. Grazie a Alessandro Praterotti, che ritroveremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. A me non resta che augurarvi una buona serata e darvi appuntamento domani dalle 17 in poi.